Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Passatempi e divertimenti, ed in primo luogo quelli leciti e lodevoli. Ogni tanto è necessario rilassare lo spirito e il corpo con qualche divertimento. San Giovanni Evangelista, secondo quanto riferisce Cassiano, un giorno fu sorpreso da un cacciatore mentre accarezzava per divertimento una pernice che gli si era posata sulla mano. Il cacciatore gli chiese come mai lui, uomo di tanto valore, perdesse il suo tempo in una cosa tanto insignificante, senza frutto. San Giovanni di rimando gli chiese: «E tu? Perché non tieni il tuo arco sempre teso?» Il cacciatore rispose: «Beh, per timore che rimanendo sempre curvo, al momento opportuno non abbia più la forza di distendersi». L'apostolo replicò: «E allora perché ti meravigli se lascio per un po' il rigore e la concentrazione dello spirito per distrarmi un po' e consacrarmi poi con maggiore vigore alla contemplazione?» Essere tanto rigidi, rustici, selvatici, da non voler permettere né a sé né agli altri alcun genere di divertimento, è senza alcun dubbio un vizio. Prendere una boccata d'aria, fare due passi, fermarsi in conversazioni gioviali, piacevoli, suonare il liuto o qualche altro strumento, fare della musica, andare a caccia, sono divertimenti così onesti che per usarne bene basta la prudenza comune a tutti, quella che assegna ad ogni cosa un posto, un luogo, un tempo e la misura. I giochi nei quali la vittoria premia e ricompensa la destrezza e l'inventiva del corpo e dello spirito, come la pallacorda, la pallamano, il gioco della giostra, gli scacchi e altri giochi da tavolino, di natura loro sono divertimenti buoni, onesti. Occorre guardarsi solo dagli eccessi, sia per il tempo che vi si spende, sia per il denaro che vi si impegna. Se tu vi consacri troppo tempo, diventa un'occupazione, non più un divertimento. Non ne traggono giovamento né lo spirito né il corpo. Anzi, alla fine ti troverai stanco, stordito. Dopo che hai giocato 5 o 6 ore agli scacchi, ti trovi stanco, morto, vuoto nello spirito. E se giochi a lungo a palla corda, non ti diverti, ma ti ammazzi di fatica. Se poi la posta, ossia ciò che si mette in palio, è troppo alta, si altera la serenità dei giocatori. Inoltre mi sembra un'ingiustizia mettere grossi premi per la destrezza e l'inventiva in cose di così poca importanza, anzi direi di nessuna utilità come il gioco. Ma soprattutto, Filotea, sta attenta a non impegnare il tuo affetto. Un gioco sarà onesto finché vuoi, ma metterci dentro il cuore e il proprio affetto è sempre male. Non dico che non si debba provare piacere mentre si gioca, non sarebbe più un divertimento. Ma ti dico di non impegnarci il cuore, per desiderarlo, perderci tempo e così agitarti. I giochi proibiti. Il gioco dei dadi, delle carte e simili, nei quali la vittoria dipende più dalla fortuna che altro, non soltanto sono divertimenti pericolosi, come il ballo, ma di natura loro sono semplicemente cattivi, riprovevoli. È per questo che sono proibiti tanto dalle leggi civili che da quelle ecclesiastiche. Tu mi chiederai, ma dov'è tutto questo male? In questi giochi non è la ragione che dà la vittoria, ma il caso, che spesso favorisce chi di per sé, quanto a destrezza e ingegno, non meriterebbe niente. E sotto questo aspetto la ragione è umiliata. Tu mi dirai, ma ci siamo messi d'accordo. Questo vale solo per dimostrare che chi vince non fa torto agli altri. Ma ciò non toglie che il patto non sia ragionevole e il gioco nemmeno. Perché la vittoria, che deve essere il premio della destrezza, diventa premio del caso, che non merita nessun premio, visto che non dipende in alcun modo da noi. Aggiungi che questi giochi hanno il nome di divertimenti, sono fatti per questo. E invece proprio non lo sono. Sono soltanto occupazioni a tempo pieno. Non è forse un'occupazione tenere lo spirito caricato e teso da una tensione continua, agitato da insistenti inquietudini, ansie e paure? Riesci a trovare una situazione più triste, più lugubre, più desolata di quella di un giocatore? Non si può parlare, non si può ridere, non si può tossire, altrimenti i giocatori si stizziscono. E infine nel gioco non c'è gioia se non vinci. E non ti sembra che sia una gioia perversa, giacché si può conseguire solo per mezzo della sconfitta e del dispiacere del compagno? È davvero una gioia senza onore. Sono queste le tre ragioni per cui questi giochi sono proibiti. Il grande re San Luigi, sapendo che suo fratello, il conte di Anjou, e il nobile Gautier stavano giocando, malato com'era si alzò e barcollando si recò in camera loro, prese i tavolini da gioco, i dadi e una parte del denaro e gettò tutto in mare dalla finestra. Si corrucciò molto contro di loro. E la santa e casta Sara, parlando a Dio della propria innocenza, per metterla in evidenza, dice: «Tu sai, Signore, che non mi sono mai fermata a parlare con i giocatori». I balli e i passatempi leciti ma pericolosi. Di natura loro, le danze e i balli sono cose indifferenti, ma il modo abituale di dare corso a questi passatempi manifesta una forte inclinazione e tendenza al male. Per tale motivo costituiscono sempre un certo pericolo. Ci si dà le danze di notte. Col favore delle tenebre, dell'oscurità, è facile farsi scivolare qualche libertà equivoca, insinuatrice, per un soggetto che, di natura sua, tende fortemente al male. Si veglia a lungo, il che guasta la mattinata del giorno seguente, e quindi la possibilità di servire Dio in essa. In una parola, è sempre follia cambiare il giorno per la notte. La luce per le tenebre, le buone azioni con le follie. Tutti fanno a gara nell'essere vanitosi al ballo, e si sa che la vanità dispone fortemente agli affetti equivoci, agli amori riprovevoli, pericolosi. Nelle danze tutto ciò trova un terreno ideale. Lo sai, Filotea, cosa dicono i medici delle zucche e dei funghi? Che non valgono niente. Ti dico la stessa cosa delle danze. I balli migliori non sono buoni a nulla. Se ti capita di dover mangiare delle zucche, fa attenzione che almeno siano preparate bene. Se ti trovi in una situazione per cui non ti è possibile trovare plausibili giustificazioni per dispensarti dal ballo, cura che la danza sia ben preparata. Con che cosa la devi condire? Con la modestia, la dignità e la retta intenzione. Riferendosi ai funghi, i medici dicono di mangiarne pochi e di rado, perché, per quanto ben preparati, la quantità li rende velenosi. Filotea, danza poco e raramente, diversamente rischieresti di affezionartici. Secondo Plinio, i funghi, proprio perché sono spugnosi e porosi, assorbono facilmente tutto ciò che di infetto c'è intorno. Se si trovano vicino ad un serpente, ne assorbono il veleno. I balli, le danze e simili riunioni equivoche ordinariamente assorbono tutti i vizi e i peccati che dominano in un ambiente: le dispute, le invidie, le beffe, gli amori folli. Allo stesso modo che il ballo apre i pori del corpo di coloro che vi si impegnano, contemporaneamente apre anche i pori del cuore. Per cui, se qualche serpente, approfittando dell'occasione, viene a sussurrare qualche parola lasciva all'orecchio, qualche corteggiamento, qualche moina, o addirittura qualche basilisco viene a gettare sguardi impudichi, occhiate di amore, i cuori sono molto arrendevoli e si lasciano facilmente conquistare ed avvelenare. Questi divertimenti, Filotea, abitualmente sono fuori posto e risultano pericolosi. Indeboliscono le forze, intiepidiscono la carità, risvegliano nell'anima mille generi di affetti perversi. Questa è la ragione per cui occorre servirsene con grande prudenza. Dopo i funghi, si raccomanda di bere vino della migliore qualità. Io ti dico che dopo le danze devi ricorrere a qualche santa e buona riflessione per bloccare le impressioni pericolose che il piacere che hai provato potrebbe aver risvegliato nella tua anima. Quali? Primo, mentre tu ti davi alle danze, molte anime bruciavano nel fuoco dell'inferno per i peccati commessi nel ballo o per colpa del ballo. Secondo, molti religiosi e persone devote, mentre tu ballavi, erano alla presenza di Dio, cantavano le sue lodi, ne contemplavano la bellezza. Hanno impiegato il loro tempo molto meglio di te. Terzo, mentre tu danzavi, molte anime morivano tra grandi sofferenze. Milioni di uomini e di donne combattevano con il male nei loro letti, negli ospedali, nelle strade. Pativano per la gotta, i calcoli, il delirio e non trovavano riposo. Non ne hai compassione. Non pensi che un giorno ti lamenterai come loro, mentre altri danzeranno come ora fai tu. Quarto, nostro Signore, la Madonna, gli angeli e i santi ti hanno visto al ballo. Come hai fatto loro pena? Hanno visto il tuo cuore affogarsi in simile follie, tutta presa da quelle sciocchezze. Quinto, mentre tu ballavi, il tempo scorreva e ti sei avvicinata alla morte. Guarda come sogghigna e ti invita al ballo, al suo ballo, nel quale i violini saranno i gemiti dei circostanti e il passo di danza sarà uno solo. Quello dalla vita alla morte. quella danza è il solo vero passatempo dei mortali. In un momento passi dal tempo all'eternità della felicità o del tormento. Ho notato per tua comodità queste brevi riflessioni, ma Dio te ne suggerirà altre a questo fine, se tu hai il suo timore. Quando è permesso giocare e danzare? Giocare e danzare è lecito quando si fa per divertimento, non per affetto. Deve essere per breve tempo, non fino a stancarsi o stordirsi, e di rado. Chi lo facesse spesso trasformerebbe il divertimento in lavoro. Ma quando si può giocare e danzare? Le occasioni per la danza e il gioco, di per sé moralmente indifferenti, sono abbastanza frequenti. Quelle per i giochi proibiti sono più rare, e quanto più tali giochi sono biasimevoli e pericolosi, tanto più rare saranno le occasioni in cui saranno permessi. In breve, gioca e danza alle condizioni che ti ho indicato, quando te lo consiglieranno la prudenza e la discrezione, per accondiscendere e far piacere all'onesta compagnia nella quale ti troverai. La condiscendenza è figlia della carità e come tale rende buone le azioni indifferenti e permesse quelle pericolose. Riesce perfino a togliere la malizia a quei giochi che sono del tutto cattivi, per cui i giochi d'azzardo, che di per sé sono riprovevoli, cessano di esserlo se qualche volta è una ragionevole condiscendenza che ti ci conduce. Mi ha edificato leggere nella vita di San Carlo Borromeo che era arrendevole con gli svizzeri in certi campi nei quali ordinariamente era molto severo, e che il beato Ignazio di Loyola, invitato a giocare, accettò. Di Santa Elisabetta d'Ungheria sappiamo che giocava e danzava quando si trovava in riunioni fatte per divertimenti. E questo senza pregiudizio della devozione, che era tanto radicata nella sua anima che aumentava in mezzo alla pompa e alle vanità cui le esponeva la sua condizione, proprio come avviene per gli scogli intorno al lago di Rieti, che crescono se battuti dalle onde. Col vento i grandi fuochi divampano con maggiore violenza, ma i piccoli si spengono del tutto se non li proteggiamo. Bisogna essere fedeli nelle grandi e nelle piccole occasioni. Nel Cantico dei Cantici, lo sposo confessa che la sposa gli ha rapito il cuore con uno sguardo e un capello. Tra tutte le parti del corpo umano, nessuna è più nobile dell'occhio, sia per la sua perfezione come organo, sia per la sua attività. E niente è più trascurabile di un capello. Lo sposo divino, in tal modo, vuole farci capire che non gli sono accette solo le opere importanti dei devoti, ma anche le minori e quelle che sembrano di nessun conto. Sarà contento di noi solo se avremo cura di servirlo bene nelle cose importanti e di rilievo, come nelle piccole ed insignificanti. Sia con le une che con le altre possiamo rapirgli il cuore per amore. Preparati dunque, Filotea, a soffrire un gran numero di grosse afflizioni per il Signore, forse anche il martirio. Deciditi a fargli dono di quanto hai di più prezioso, sempre che si degni di accettare. Padre, madre, fratello, marito, moglie, figli, i tuoi occhi, la tua vita. A tutto ciò devi preparare il cuore. quando la divina provvidenza non ti manda afflizioni acute e pesanti, insomma, non ti chiede gli occhi, donane almeno i capelli. Voglio dire, sopporta con dolcezza le piccole offese, gli inconvenienti insignificanti, quelle sconfitte da poco sempre all'ordine del giorno. Per mezzo di tutte queste piccole occasioni, usate con amore e dilezione, conquisterai totalmente il suo cuore e lo farai tuo. I piccoli gesti quotidiani di carità, un mal di testa, un mal di denti, un lieve malessere, una stranezza del marito o della moglie, un vaso rotto, un dispetto, una smorfia, la perdita di un guanto, di un anello, di un fazzoletto. Quel piccolo sforzo per andare a letto presto la sera e alzarsi al mattino di buon'ora per pregare, per fare la comunione. Quella piccola vergogna che si prova a fare in pubblico un atto di devozione. Insomma, farla breve, tutte le piccole contrarietà accettate e abbracciate con amore fanno infinitamente piacere alla bontà divina, che per un bicchiere d'acqua ha promesso il mare della felicità completa ai fedeli. E siccome queste occasioni si presentano in continuazione, servirsene bene è un mezzo sicuro per accumulare grandi ricchezze spirituali. Quando nella vita di Santa Caterina da Siena ho letto tanti rapimenti, elevazioni di spirito, tante parole di sapienza e persino di predicazioni tenute da lei, ho avuto la certezza che con quell'occhio di contemplazione aveva rapito il cuore dello sposo celeste. Ma mi ha consolato nella stessa misura vederla in cucina girare umilmente lo spiedo, attizzare il fuoco, preparare il cibo, impastare il pane, fare tutti gli uffici più umili della casa, con un coraggio pieno di amore e di dilezione per il Signore. Ho uguale stima per la piccola e semplice meditazione che faceva consacrandosi a quei compiti così umili e disprezzati, come per le estasi e i rapimenti così frequenti in lei, e che forse le furono concessi, proprio in ricompensa di quell'umiltà e di quell'abiezione. Ecco com'era la sua meditazione. Mentre preparava da mangiare per suo padre, pensava di prepararlo per nostro Signore, come Santa Marta. Per lei, sua madre le ricordava la Madonna, i fratelli gli apostoli. In tal modo pensava nel suo spirito di servire tutta la corte celeste e si adoperava in quei piccoli lavori con molta dolcezza, perché sapeva che quella era la volontà di Dio. Ti ho presentato questo esempio, Filotea, perché tu ti renda conto quanto sia importante indirizzare bene tutte le nostre azioni, per vili che siano, al servizio della Divina Maestà. A questo scopo ti consiglio vivamente di imitare la donna forte, tanto lodata da Salomone, che poneva mano alle imprese forti, alte e generose, senza trascurare di filare e girare il fuso. Ella ha posto mano a cose grandi e la sua mano gira il fuso. Poni mano a cose forti, applicandoti alla riflessione e all'orazione, all'uso dei sacramenti, a donare amore a Dio e alle anime, a spargere buoni pensieri nei cuori, insomma fare opere grandi ed importanti secondo la tua vocazione. Ma non dimenticare il fuso e la conocchia, ossia pratica quelle piccole e umili virtù che crescono come fiori ai piedi della croce. Il servizio dei poveri, la visita ai malati, la cura della famiglia, con tutto quello che comporta, con una diligenza che non ti lascerà mai tempo per l'ozio. E in tutte queste faccende, cerca di avere pensieri simili a quelli che, come ti ho detto, aveva Santa Caterina in tali situazioni. Le grandi occasioni di servire Dio si presentano raramente. Le piccole, invece, le hai sempre. Dice il Salvatore: chi sarà fedele nel piccolo avrà un incarico grande.